Le recenti manifestazioni, anche religiose, dei musulmani a Milano, a Bologna e a Roma, ancorché secondo me inevitabili in questa contingenza storica, hanno messo un bel po' di paura a chi ha visto una seconda religione consolidarsi in Italia dopo il cattolicesimo imperante. L'ebraismo e le altre fedi cristiane sono ben poco concorrenti da noi. Di qui il rafforzarsi delle lotte della destra nostrana contro le moschee, soprattutto di grandi dimensioni e nelle grandi città. Fini, inoltre, ha ritenuto in questi giorni di dare il via ad una sua campagna per depotenziare gli imam. Secondo lui, essi dovranno parlare ai loro fedeli in italiano, anziché in arabo. Io, dall'alto del mio concreto agnosticismo, sono convinto che sul piano di una possibile concorrenza religiosa nei riguardi delle future generazioni, perché alla fine è questo che spaventa gli italiani, gli islamici che parlano italiano per diffondere il Corano siano più facilmente accettati dal popolo e quindi, alla fine, più allettanti e pericolosi di quelli che persisteranno a parlare l'arabo. Non è stato l'avvicinamento al popolo il motivo per cui la messa cattolica in latino è stata abolita a favore di quella in italiano? Giorgio, Milano. Ma quanto tempo impiegheranno i palestinesi a comprendere che la resistenza, da loro oltremodo proclamata e prolungata per decenni, è voluta dai loro caporioni, bastian contrari, che li hanno convinti che devono proseguire in un altro modo? Quella che loro chiamano resistenza non ha alcun senso, perché potrebbero progredire e prosperare con tanto di relazioni commerciali. E invece no, devono lanciare i loro razzetti, poco efficaci, non si sa bene perché o per chi, per religione o solo per ideologia. Ma il popolo palestinese, a me sembrano tanti sprovveduti. In decenni di guerriglia e terrorismo, non hanno ottenuto o cambiato un bel niente. Gli è stata pure concessa la possibilità di accordarsi e di migliorare le loro condizioni di vita, accettando qualche compromesso o comprensione. Sandro. Se la crisi è, come la maggior parte delle persone accorte pensano, tanto profonda da lacerare il tessuto sociale, nulla potrà bloccarne lo sviluppo, nessun intervento, nessuna azione. Si potrà solo cercare di attenuarne gli effetti dolorosi e prepararsi al dopo. Dopo, che significa cambio di paradigma. Intervento massiccio degli stati nell'economia, sarà un bene? Non credo, sicuramente non in Italia, dove regna un caos politico fin dal 46. Abbandono delle politiche liberiste e surclassamento della scuola monetarista. Abbandono delle politiche di interesse principe degli azionisti, recupero dei valori di redistribuzione e riequilibrio tra capitale e lavoro? Solo attraverso un maggiore equilibrio si può vivere in società non governate da continui shock, nei quali i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, a discapito della pace sociale e della sicurezza. Attenzione non tanto alla tecnologia, intesa come sviluppo dell'information technology, come la conosciamo oggi, ma soprattutto attenzione ai temi ambientali, alle biotecnologie e nanotecnologie. La crisi ci consegnerà un mondo indubbiamente diverso, nel quale molte figure di primo piano che hanno fallito, perché di fallimento si deve parlare, dovranno necessariamente lasciare il posto a nuove leve. Gli Stati Uniti saranno, come sempre, l'apripista. L'Italia, come sempre, il fanalino di coda. Tempo, meno di 2 anni. Costo per l'Italia, almeno 5 punti di PIL e almeno 2 milioni di disoccupati. 800.000 in più sono già quelli di questo inizio anno. È qui che occorre intervenire. È solo da qui, dal reinserimento, riqualificazione di queste persone, che si può ripartire. Prima lo si capisce, meglio è. Non bastano sussidi a pioggia, temporanei e da fame. Occorre una visione di lungo periodo, anche se qualcuno che sta tornando di moda diceva che nel lungo periodo siamo tutti morti. Cosa fare? Riqualificare, soprattutto riqualificare. Non vi è altra via. Ridare reddito temporaneo e riqualificare per un sicuro proficuo reinserimento. Alex. Il mio nome è Daniel e vengo dall'Ecuador. Negli ultimi tempi sto lavorando male e senza voglia perché da quando mi sono iscritto al sindacato, essendo straniero, ricevo solo dei dispetti da parte del mio datore di lavoro. Isolamento, finalità persecutorie, maltrattamento psicologico, calunnie, insulti e altre cose. Purtroppo il sindacato non ha fatto niente a riguardo. Quando sono arrivato in Italia ho cercato di imparare il più possibile la vostra lingua, per riuscire a comunicare ed esprimere tanti sentimenti che noi stranieri abbiamo dentro. Ricordo che una volta il mio maestro di italiano mi disse: «Se vuoi imparare di più, ascolta la radio». Così, nel 2003, tra tante radio ho scelto Radio 24, per tutta la varietà di temi. Per via della mia scelta sindacale, ora, mi è stata tolta la radio, che per me era una compagnia, dato che il mio lavoro è manuale, monotono e ripetitivo. Daniel. Mi chiamo Luciano e lavoro da circa 27 anni nel settore della panificazione nella provincia di Rieti. Vi scrivo per chiarire alcuni concetti importanti riguardo le difficoltà che attualmente il nostro settore sta attraversando. Un settore storicamente ritenuto valido sotto il profilo economico. Con amarezza devo dire che questo lavoro non vuole farlo più nessuno, per il semplice motivo che è sproporzionato il rapporto tra l'impegno, la responsabilità, lo sforzo e i guadagni. Bisogna pensare innanzitutto alla fatica e al sacrificio economico da affrontare per avviare tale attività, che, oltretutto, richiede un'elevata conoscenza delle attrezzature e dei cicli di lavorazione dei prodotti. Insomma, bisogna creare un impero, una macchina perfetta che deve essere in grado di funzionare 24 ore su 24, con ritmi di vita assurdi. Non si sa quando si dorme, quando si mangia, quando si potrà stare con la famiglia, quando si potranno fare le ferie. Non ne parliamo. Oltre a questo, vi sono altri problemi che appesantiscono la situazione. Gli adempimenti in materia di autocontrollo igienico-sanitario, il rispetto delle normative europee, che prevedono modifiche strutturali e adeguamenti degli impianti e dei macchinari, e infine il rispetto degli studi di settore e la conseguente congruità in campo amministrativo. Si sono aggiunte, in ultimo, le numerose mazzate causate dai rincari, del 30% circa, delle materie prime, alimentari e non, che, insieme all'aumento della pressione fiscale e agli enormi costi di gestione, hanno causato grossi squilibri economico-finanziari a queste attività. Se non ci affretteremo ad adeguare i prezzi di vendita, ci troveremo costretti a chiudere, in quanto non avremo più la capacità economica per rinnovarci attraverso la sostituzione delle attrezzature, dei macchinari usurati e degli autocarri per il trasporto. Perciò mi rivolgo alle svariate associazioni dei consumatori, che stanno sbandierando i forti e ingiusti rincari del pane e dico loro: andate voi la notte a lavorare in un forno. Così avrete la possibilità di rendervi conto voi stessi che alla fine di un'interminabile e faticosa giornata non vi rimarrà che un esiguo guadagno, paragonabile a quello di chi sta al semaforo a vendere i fiori o a pulire i vetri. È pura verità. Forse qualcuno i conti non li sa fare molto bene, ma l'energia, ai prezzi attuali, incide per circa il 50% sul valore del prezzo del prodotto finito. Se poi aggiungiamo tutto il resto, ci rendiamo conto che ciò che ci rimane in mano è veramente una cifra ridicola, da miseria. Quindi, alla fine di questa storia, penso che un lavoro pesante come questo debba avere un ritorno economico adeguato. Luciano. Il sito scolastico ufficiale della Scuola Media Statale Carlo Porta di Milano riporta una rassegna di graffiti, senza specificare quantomeno un messaggio chiaro che dica che il graffitismo non può essere fatto illegalmente e abusivamente. Tale messaggio non sarebbe fuori luogo, visto che il 99% dei graffiti esistenti dalle nostre parti sono illegali, e visto lo scempio che quotidianamente viene fatto ovunque, dalle bande di writers. Inoltre, il messaggio iniziale del sito: mi è sempre più chiaro che l'arte non è un'attività elitaria, riservata all'apprezzamento di pochi. L'arte è per tutti e questo è il fine a cui voglio arrivare. È quantomeno parziale e ambiguo, benché espresso da un mostro sacro della street art. Infatti, pubblico e per tutti non vuol dire imposto a tutti. E purtroppo sappiamo tutti che i writer giocano su questo equivoco per spacciare la legittimità delle loro attività. Attività che, a mio modesto parere, non è arte, ma solo una forma di invadenza, prepotenza ed esibizionismo, nonché occupazione e controllo del territorio. Del resto mi chiedo perché le opere di Van Gogh e Picasso sono state fatte su tela e siano visibili in pinacoteche, mostre, cataloghi, eccetera, mentre i cosiddetti writer devono imporre a tutti le loro cose, stampate indelebilmente sui muri, nonché su cavalcavia, treni, autobus, eccetera. Questo indipendentemente dalla natura legale o meno della cosa. Forse che l'arte di Picasso e Van Gogh non è abbastanza pubblica? Perché non è stata fatta sui muri? E forse che stampare sui muri certi disegni, del tipo di quelli riportati nel sito della sopramenzionata scuola media, sarebbe un modo di fare arte per tutti? O non piuttosto imposizione a tutti? Chi vuole rendere pubblica la sua musica? Fa concerti, dischi, trasmissioni TV? Oppure si mette a strimpellare in mezzo alla strada imponendo a tutti la sua roba? Inoltre faccio rilevare che un graffito su un muro o un'altra struttura urbanistica esistente, come di solito capita coi graffiti, è una forma di violenza, anche perché toglie alla cittadinanza il diritto di vedere le strutture urbanistiche originali della città. Vorrei che il preside di questa scuola chiarisse con i suoi alunni, e anche sul sito, la differenza fra pubblico e imposto a tutti, o quantomeno la differenza fra disegno legale e disegno illegale. Angelo. Sono il responsabile del personale di un ufficio pubblico del settentrione che conta complessivamente più di 100 dipendenti. Personalmente sono in linea riguardo molti aspetti portati avanti dal ministro della funzione pubblica, Brunetta. Su qualcuno, però, devo inevitabilmente dissentire e penso di avere titolo a farlo non soltanto in base alla mia quotidianità lavorativa, ma anche a seguito di ripetuti confronti con colleghi di varie città d'Italia. Negli ultimi mesi, con grande frequenza, i mass media hanno dedicato ampio spazio alla riduzione dell'assenteismo per malattia negli uffici pubblici, il che è un dato inequivocabile, seppur divulgato dal competente ministero, in maniera decisamente gonfiata rispetto ai numeri reali. Nelle sue frequenti uscite ad effetto, il ministro Brunetta e il suo staff non hanno però mai posto l'accento sul fatto che a fronte di un disincremento delle malattie, sono poco più che quintuplicati gli infortuni sul lavoro. Ma evidentemente così va bene a tutti. Al ministro, che può sbandierare un giorno sì e uno no la sua lotta all'assenteismo, e ai dipendenti pubblici, che scegliendo l'infortunio in luogo della malattia, non si ritrovano alcuna decurtazione in busta paga, rischiano addirittura di avere un indennizzo economico e non sono sottoposti alla visita fiscale non stop da mattina a sera, fortemente voluta dal ministro Brunetta. A tal proposito, nell'ultimo periodo, inevitabilmente le visite fiscali, per effetto del nuovo orario in cui è possibile effettuarle, hanno richiesto un maggiore impegno da parte dei medici preposti, in tutto in barba ai proclami di contenimento della spesa pubblica, sbandierati dalle più alte cariche dello Stato. Mario. Riguardo alla vicenda Cacà, abbiamo finalmente avuto la prova che, per la gioia dei sostenitori del dilettantismo, il professionismo nel calcio non esiste. Siamo di fronte a dilettanti allo sbaraglio, pagati fior di milioni, che sono capaci perfino, dall'alto del loro gruzzoletto, di farci la morale su come i soldi non siano tutto nella vita. Un professionista o semplicemente una persona seria avrebbe dovuto accettare o declinare subito l'offerta. Invece il signor Cacà, da un lato, a mio avviso, ha vestito perfettamente i panni del protagonista della grande commedia mediatica andata in scena in questi giorni. Dall'altro, ha aspettato invano la famosa offerta dalla Spagna, che arriverà a giugno con ogni probabilità. Inizio a credere che la storia dei 120 milioni promessi dallo sceicco del Manchester City fosse solo un'invenzione di qualcuno per poter accrescere i propri meriti nel momento in cui avesse declinato l'offerta. Umberto Novara. Tutti in questo momento usano toni molto forti contro il Manchester City e ridicolizzano la squadra, il modo di giocare e l'ambiente tutto. Io apprezzo dal punto di vista etico la decisione di Kakà di voler restare al Milan. Tuttavia ho notato come i media facessero leva nell'indurlo a non accettare la proposta da Nababbi dello sceicco più sulla destinazione Manchester che sul principio etico per il quale i soldi non fanno la felicità. Credete davvero che i media si sarebbero comportati allo stesso modo se l'offerta fosse venuta dal Manchester United? Sino agli anni Ottanta, una squadra non blasonata poteva ancora sognare di vincere qualcosa di importante attraverso il gioco e grazie a innesti azzeccati, vedi l'Hellas Verona di Bagnoli nell'85. Oggi, che sussiste la libera circolazione dei lavoratori e che lo sport si è sottomesso all'economia, cosa deve fare un tifoso del Manchester City o di una squadra minore per poter ricominciare a sognare, se non sperare che ci siano proprietà pronte a comprare, a cifre convincenti, calciatori bravi ma anche sempre più ricchi e più viziati? Non sarebbe ora di mettere un tetto agli ingaggi e fissare un budget di spesa per club come avviene negli Stati Uniti? In questo modo si potrebbe riequilibrare la situazione. Nell'NBA ogni squadra può ambire a crescere di fama. Perché invece in Europa, se una piccola squadra cerca di diventare grande, passa per immorale e comunque resta sempre poco appetibile? Pierandrea. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.